Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti gli amici e le amiche in ascolto, un affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Ah, Antonio, allora siamo arrivati alla fine di marzo. Qui tempus fugit, come dicevo, un tempo, tanto per fare un gioco di parole. Però qui, non so, speriamo che la primavera arrivi. E porti consiglio. Allora, un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo è internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Con un cordiale saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Allora, Antonio, stasera abbiamo un ospite in carne ed ossa. Oh, sì, ecco. Bene. Allora vuoi presentare tu? Sì, allora presentiamo subito il nostro ospite, il professor Mario De Conto da Postioma di Paese. Buonasera professore. Buonasera professore. Buonasera e ben arrivato. Sì, e anche la ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ecco. Allora io vorrei magari leggere così per coloro che non lo conoscono. Il professor Mario De Conto, diciamo, è appunto di Postioma di Paese e ha fatto gli studi classici al liceo Pio X, si è laureato a Padova con il massimo dei voti in lettere moderne con una tesi sulla storia della Chiesa, una confraternita trevigiana del 400, pubblicata poi sulla rivista di studi agostiniani. Ha collaborato e collabora con varie riviste locali, è coautore del libro Postioma, itinerari nella memoria storica, è preside del liceo scientifico e classico al collegio Pio X, quindi un ritorno direi, con forti interessi nella storia e nelle tradizioni locali, è consulente storico della Pro Loco di Postioma ed è componente del gruppo per la valorizzazione della Chiesa del Settecento a Postioma. Benissimo. Ecco qui, abbiamo il professore, chiediamo anzitutto che non ci sia qualche lacuna nella presentazione che abbiamo fatto. Anche troppo buoni, grazie. Ecco. L'importante è che sia a posto. Allora, prima di dare la parola al nostro ospite, ascoltiamo una canzone, vero Antonio? Come ogni anno facciamo ascoltare canzone di primavera, perché insomma che sia di buon auspicio, è cantata da Claudio Villa. Oggi è venuto a visitarmi un usignolo, m'ha fatto un dono, e sai qual è? Son poche note scritte su di un rigo solo, quattro parole, di più non c'è, ma son sicuro piaceranno a te. Una canzone di primavera, è il più bel fiore sbocciato al sole che io dono a te, è la promessa di un'alba chiara, con il profumo di chi vuol bene soltanto a me, la melodia dirà al tuo cuore, il primo amore non si può dimenticare e bacerà la bocca tua sincera, la mia canzone di primavera. Thank you. eccoci di nuovo in studio e diamo la parola subito al nostro ospite, il professor Mario De Conto. A lei la parola. Grazie. Ma allora il paese di cui vi parlerò questa sera è Postioma, appunto, è il nome, la derivazione del nome è chiarissima. Difatti è attraversato dalla via Postumia e noi possiamo dire che sicuramente ecco intorno al 148 a.C. la via Postumia fu tracciata per interessamento, noi diremo oggi promozione del console Spurio Albio Postumio, da cui ecco il nome, certo. Nel 148 a.C. e quasi sicuramente ecco in quella dove ora si trova Postioma c'era un villaggio romano, probabilmente abitato da legionari, meglio veterani, difatti è un'area di confine per quel tempo, la nostra terra. E allora mandavano coloni a coltivare i campi, ma che fossero anche abili nell'uso della spada, certo. Per cui all'occorrenza sapevano trasformarsi anche in soldati. Una doppia funzione, diciamo. Esatto, quindi era molto razionale. Non per nulla ecco, il tracciato della Postumia tuttora è rimasto ecco, ed è impressionante per il rettilineo ecco, che appare ecco, a chi lo osserva un po', tranne la S, che è proprio a Postioma, ma su questo ci torneremo successivamente. E poi ecco sempre nella nostra campagna troviamo ancora tracce della centuriazione romana, quindi della divisione ecco che i romani fecero molto razionale degli agri del campo fra i vari coloni. Alcune vie sono ancora, ad esempio la via Antiga tuttora ecco rimane un segno ecco di questa antica centuriazione. È stato trovato ecco negli anni 80 il basamento di un torrione più o meno all'altezza dell'attuale scuola elementare, che probabilmente era un punto di avvistamento e di ristoro. Difatti ecco Postioma dista da Ronchi di Maserada, dove c'era il guado del Piave, un 14 chilometri più o meno equiparabili a 10 miglia, ed era un po' il percorso che un esercito in assetto di guerra faceva in una giornata di cammino. Quindi ecco, molto probabilmente era un posto così di ristoro e anche di vedetta. Tuttora ecco, a Postioma rimane una contrada che ha il nome di Castello dei Ronchi, quindi Ronchi di Maserada, Castello dei Ronchi, area disboscata esatto. Proprio per ospitare accampamenti ecco, romani. Ma ecco, io salterei dall'età romana, dove abbiamo queste così notizie, a quella che è più documentata ed è appunto quella diciamo medievale. Il nome di Postioma appare per la prima volta in una bolla di Eugenio III, siamo nel 1152, dove vengono elencate no, le varie pievi della pievi, diocesi esatto. Di Treviso. Interessante è un'altra bolla di Lucio III, siamo nel 1184, in cui si nomina la pieve di Postioma come Pleben Santi Georgii. Ecco, ed è la prima così indicazione del patrono titolare ecco, della parrocchia, che tuttora è San Giorgio. Poi ecco, nei primi decenni del Novecento, anzi i primi del 1900, venne aggiunta Santa Elena come copatrona, però il titolo è proprio tuttora quello di San Giorgio. Anche questo è interessante, sì, San Giorgio era certo, un militare, certo. Quindi molto affine probabilmente ai discendenti delle colonie ecco, esatto. Romani. E del Medioevo poi abbiamo una traccia importante che è un affresco, o meglio una serie di affreschi, uno in particolare che viene attribuito, è stato attribuito anche così da esperti a Tommaso da Modena o alla scuola di Tommaso da Modena. Ora è ospitato in un palazzo in Villa Tassoni a Postioma, se qualcuno viene da Treviso verso Montebellune, là dove la Feltrina si restringe un po', c'è un palazzone che quasi ecco, cade diciamo a picco no, sulla Feltrina, e lì ecco ci sono degli affreschi interessanti che sono, ripeto, stati attribuiti a Tommaso da Modena o alla scuola. Interessante perché c'è un graffito e sono pieni di graffiti come era prassi nel Medioevo incidere, e c'è un graffito che dice Hic fuit Thomas de, e poi nel momento in cui la picchettata, perché poi era stato coperto da un intonaco, fa sparire Che edificio era? Molto probabilmente, ecco, sta facendo degli studi anche il professor Cagnin, ecco, che molto probabilmente era un ospedale con una, diciamo, un portico sulla via Caltrevisana, si chiamava così la Feltrina allora, in cui potevano, a cui potevano accedere anche i viandanti. Difatti sono affreschi che raffigurano San Francesco, Santa Chiara, San Antonio Abate e poi ecco San Cristoforo, che è proprio il patrono dei viandanti. Facciamo un salto per restare ai documenti che noi abbiamo. Nella prima visita pastorale, e qua è una miriade di informazioni che ci fornisce, è del 1554, c'è Francesco Pisani che viene e dice che ci sono a Postiamo 180 anime da comunione, aggiungiamoci un centinaio di bambini e così via, ecco, quindi diciamo, ecco, più o meno sui 300 ecco, abitanti. Ma la visita più interessante è quella successiva di poco, meglio di un paio di decenni, 1575, Giorgio Cornaro, Corner, viene e ecco, fa tutto un inventario, parla di un altare di legno, parla di questa pieve e nomina, ecco, le parrocchie, le altre parrocchie e sono, che erano soggette a questa pieve ed è piuttosto ampia. Difatti si parla, ecco, di San Sisto di Musano, di Santa Maria di Posnovo, l'attuale signoressa, sì. San Bartolomeo di Merlengo, San Vito di Merlengo, la chiesa campestre al Baston, che noi da San Zeno, ecco oggi è la chiesetta di Santa Lucia sulla Feltrina, Santa Maria di Porcellengo, San Rocco di Ponzano e si arriva anche a San Palè o a San Pelagio, oltre a Santa Maria di Paderno. Quindi una vasta una pieve diciamo. Molto molto certo, ampia molto. Ed è quasi sicuramente medievale la fonte battesimale che il vescovo si raccomanda venga conservato anche se la chiesa verrà poi ristrutturata ed è un blocco monolita, ecco, scavato, ecco, impressionante, che tuttora si può, ecco, vedere nella chiesa del Settecento. Straordinaria. Bello. Ecco. Chiedo scusa, ecco, è curiosa la cosa. E questo, come dire, regressione moderna di pievi che un tempo dominavano praticamente l'esatto contrario, altri paesi, altri borghi eccetera hanno preso il sopravvento e le pievi, certo. Spesso le pievi originarie si sono ristrette. Difatti, diciamo che quasi dal 600 cominciano litigi vari perché ognuno vuole smarcarsi da questo, perché dovevano andare a prendere il fuoco sacro, l'acqua benedetta, il sabato santo, c'era tutto un rituale per dare un contributo e così via. Interessante. Però di fatto ecco poi Postiamo diciamo che perse questa supremazia. Di la verità, l'ultima traccia è con Musano. Io ricordo il mio parroco Don Emilio Ballan, entrò nel 60, il parroco di Musano gli chiese se voleva che gli venisse corrisposto l'equivalente di un agnello, che era un retaggio di quel parroco. Per carità di Dio, ecco, l'ultimo, ma per dire che qualcosa è rimasto, sia pure assottigliandosi. Allora ci fermiamo un momentino e ci ascoltiamo la seconda canzone in programma, che è cantata da Gianna Nannini e si intitola Aria. Nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò per volare in paradisi che non ho. E non è facile restare senza più fate da rapire. E non è facile giocare se tu manchi. solleva il mondo. Sì, portami con te tra misteri di angeli e sorrisi di demoni. E li trasformerò in coriandoli di luce tenera, e riuscirò sempre a fuggire dentro colori da scoprire, e riuscirò a sentire ancora quella musica. Eccoci col nostro ospite di nuovo in studio per un altro affascinante percorso nella storia di Postino. Allora, eravamo rimasti alla visita di Giorgio Corner 1575. Dopo il Concilio di Trento queste visite cominciano ad essere, no, sistematiche. Beh, fra le varie cose che vengono registrate, ecco, nel verbale, noi diremmo oggi, ecco, di quella visita, c'è la presenza di un gonfalone con le figure di San Giorgio e della Beata Vergine. Molto probabilmente anche a Postioma, sia pure in maniera molto ridotta, c'era una confraternita di battuti, perché quando noi troviamo in documenti così antichi, ecco, riferimenti alla confraternita della Beata Vergine, e qui si parla di un gonfalone legato proprio alla confraternita di San Giorgio e della Beata Vergine, probabilmente si fa riferimento ai battuti, quindi a quella confraternita che praticava penitenza ma anche solidarietà, ecco, e qui a Treviso era molto, ecco, importante. Un'altra cosa che in quel resoconto della visita viene così registrata è un rimprovero fortissimo che il vescovo fa al parroco di allora, perché al pievano, come si suol dire, perché, ecco, non aveva trovato l'archivio parrocchiale sguarnito. Cosa era successo? Lo zio, che faceva da perpetuo, noi diremmo oggi, sotto Pasqua, dice: ma perché tutte ste scartacce, facciamo un po' le pulizie di Pasqua, e incendiò tutto quanto. Mamma mia, per cui il vescovo rimprovera in maniera molto acerba, ecco, il piovano per questo fatto, e questo è una grossa perdita, perché purtroppo abbiamo quasi nulla anche nella curia, troviamo poco prima di questo anno proprio per questo fatto che è successo. Beh, la gente di Postioma, beh, l'economia era agricola, ecco, c'erano alcune famiglie che possedevano appezzamenti molto vasti, che magari non residevano a Postioma, certamente, ecco, hanno una loro residenza, però non si è riusciti, penso siano un po' imparentati con i capodilista, c'erano gli Emo capodilista, ecco, che avevano, sì, esatto. Ecco, erano più che altro, poi c'erano dei Foscarini che però non abitavano a Postioma, molte terre dell'ospedale di Treviso, quindi, ecco, e abbiamo appunto un'economia agricola. La gente, la possibilità di vita era intorno ai 45 anni, quindi pensiamo alle condizioni economiche, ecco, sì. Ogni tanto c'era qualcuno che arrivava a 100 anni, però è lì da vedere se anagraficamente anche la cosa era corretta, attendibile, anche perché questi sono morti, queste persone che sono arrivate a 100 anni sono state battezzate prima della fatidica data del 1575, ecco. Per cui molto probabilmente i registri di battesimo sono andati persi, sì, non si poteva più ricostruire con precisione. Però 45 anni erano pochi. È davvero, e moltissime le donne, molte comunque, ecco, non forse molte, però molte le donne che morivano di parto, ecco, e anche una mortalità infantile molto molto bassa. E allora ecco alcune situazioni strane, per cui ad esempio di fronte a un parto che si presenta podalico, vengono battezzati i piedi, perché? Perché non si sa se una volta ecco nato il bambino sarebbe sopravvissuto, ecco, e cose di questo tipo. Accanto a questa realtà, ecco, ahimè, ecco, ci sono anche situazioni di violenza. Dal 1611 al 1682 si registrano 7 assassini. Quindi ecco, mediamente un assassino all'anno. Ecco. Alcuni ecco anche molto così consistenti. Ve ne leggo uno. Ecco, gli atti dicono... Aloisio Florian, detto il Turco, fu sepolto in questo cimitero, ne ebbe alcun sacramento perché fu ferito e subito morto, era di anni 22 in circa. Siamo nel 1611. In circa. Ancora, nel 1619 fu trovato morto ammazzato da una ferita sotto la gota sinistra e gittato in un fosso in loco detto all'Antiga, che tuttora ecco rimane. Ancora altre cose, altri misfatti sono successi ecco, all'osteria, molto probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, succedeva così. Certo. Sicuramente ecco, queste persone, alcune venivano sepolte senza, anzi quasi tutte senza sacramento, perché morte e di morte violenta, e quindi ecco, non si somministrava. Credo che però in questo periodo venissero sepolte correttamente, perché tornando sempre alla visita pastorale della 1575, il Corner rimprovera, oltre che per aver distrutto i libri, i posti, il parroco, perché dice alcuni vogliono che si seppellisca col viso insoso per essere nassudo così, e altri levare i morti senza croce che questa restasse al confine della villa. Ecco, e il vescovo dice no, perché c'era quasi una forma di superstizione, cioè come si nasce col viso verso il basso, così si deve essere sepolti anche, esatto, così. E siccome questo è legato a miti, diciamo, pagani o classici, allora il vescovo dice assolutamente no. E quindi io penso che questi morti ecco violenti furono sepolti secondo correttamente, purtroppo senza i sacramenti. Nel 29, ecco, è importante, 1629, anche a Postioma passa la famosa peste manzoniana. Ecco, basti pensare che abbiamo dal 29 al 31, quindi in 2 anni scarsi, ben 94 morti. Quindi per allora era da... È una cosa straordinaria. Cioè, il registro ecco, dei funerali registra in una giornata anche 5 sepolture e magari ecco, della stessa famiglia. Mi sono sempre chiesta da come si formava questa peste, questa malattia così che... Ma lì, ecco, ormai pare abbastanza assodato che fosse una pulce che albergavano, e diremmo delle pulci che albergavano in ratti e che poi, ecco, infettavano, si sa benissimo il problema, ecco, della diffusione dei pidocchi, come fosse consistente, sì, infettavano con la loro punture, certo. Per mancanza di pulizia, insomma. Assolutamente, sì, ecco. Ancora sempre, per dare un'idea, più o meno nello stesso arco di tempo, in anni precedenti avevamo 33 morti, quindi in occasione della peste si triplica, diciamo, ecco, esatto, il numero dei decessi. Nel 23, ecco, c'è la morte di un, viene segnalato, ma non solo il 23, porto questo, ecco, del 23, la morte di un mendicante, si parla di un misero pitocco, ecco, che così passava per Postioma e che, ecco, viene a mancare. Ancora sempre, ecco, in questi anni si registra la morte di un pegoraro ed è significativo perché significa che, ecco, la transumanza, ecco, passava anche per le vie, ecco, di Postioma e venivano albergati, alloggiati in stalle, fienili, ecco, e quindi c'è questo significativo. Un'altra cosa interessante, nel 1652 un bimbo, molto probabilmente anche questo un mendicante, viene sbranato da un lupo. Quindi noi dobbiamo pensare alla nostra campagna non certamente intensivamente coltivata come adesso, ma con ancora delle zone, ecco, boscose, con, ecco, non è l'unico caso, si verificano altri 2-3 casi di questo tipo. Nel 1706, ecco, c'è la morte di un personaggio illustre, cioè del capitano Fabrizio De Benedetti. Allora, chi era costui? Era il capitano delle Cernide. Le Cernide erano quelle truppe di campagna che la Repubblica di San Marco aveva a disposizione in caso di estremo pericolo. Quindi ogni, diciamo, quartiere, c'era il quartiere di Montebelluna, quello di Castelfranco, di Conegliano, aveva, ecco, queste... erano contadini in pratica, truppe di riserva che una volta, diciamo, due all'anno facevano la cosiddetta rassegna e il capitano era il responsabile, ecco, di questo. È interessante perché uno dice è l'armata brancaleonica, però ecco, Machiavelli citerà proprio le truppe marchiane, cioè di San Marco, le truppe di campagna, come quelle che in fondo salvarono la Repubblica di Venezia, proprio perché erano più direttamente, mentre le truppe mercenarie si davano a chi pagava di più, questi pur non essendo professionisti, ma erano molto più motivati, ecco, da questo fatto qua. Ed è, ecco, interessante questo capitano, ecco, che era un marchigiano venuto, ecco, in quel di Venezia, perché, ecco, muore a Postioma e vuole essere sepolto, è l'unico laico sepolto nella chiesa di Postioma, ecco. Vale la pena dire, ma la chiesa di Postioma dov'era in questo periodo, perché ce ne sono due. Certamente non quella nuova che vedete con mattoni faccia vista, perché quella è del 1956. Ah, proprio è recentissima. Esatto. Sì, sì. Mentre questa di cui si sta parlando, in pratica era sotto l'attuale chiesa del 1700, che si vede all'incrocio, per capirci, tra la Feltrina e la Postumia. Ecco, perché recentemente è stata restaurata e sollevando il pavimento, che è della metà del 1800, è emersa la pianta della precedente chiesa. Addirittura la pianta della chiesa medievale. Pensiamo, una piccola absidiola con, ecco, un'aula quadrata, che ne so di cosa, 7-8 metri per lato, e con questa absidiola, ecco, che è davvero spettacolare, insomma. E il capitano De Benedetti viene sepolto all'interno di questa chiesa. È affascinante però trovare queste chiese, queste cose sotto, sì, sotto questa chiesa, che c'era quell'altra chiesa. Sono belle queste cose. Una stratificazione, eccetera. Sì, perché bisognerebbe appunto sapere come mai questa chiesa è rimasta sotto a quell'altra che... semplicemente diciamo che più avanti lo vedremo, ecco, seconda metà del Settecento è stato deciso un ampliamento, che la chiesa prende la forma che attualmente vediamo, ecco. E c'è un parroco giovane, 30 anni quando arriva, ecco, a Postioma, relativamente per l'età, per l'età di allora, sì, ecco, esatto, che aveva anche un fondo monetario così consistente. Perché, ecco, ci tiene a dire che la costruisce a sue spese, ecco. E costruisce anche la canonica adiacente a sue spese, non solo, ma poi lascia anche nel testamento un lascito alle donzelle da marito che non avessero il denaro per la dote. Ma ci torneremo su questo arciprete straordinario. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone divertente, cantata da Giorgio Gaber e da Enzo Iannacci, Ho visto un re.

Ecco, noi abbiamo provato quando è stato tolto il pavimento della metà del 1800, c'erano delle sepolture nella chiesa precedente, come si parlava. Certo, sì. E però, ecco, abbiamo trovato niente, perché molto probabilmente quando è stato collocato il pavimento della chiesa della metà del 1800 sono stati riesumati i resti perché all'interno della chiesa venivano sepolti i cappellani, i parroci ordinariamente, certo. E abbiamo quest'unica sepoltura laica di un laico, sì, insomma. Sì, sì. Poi ecco, beh, la gente, continuiamo, siamo nel Settecento, come continuava a vivere? Beh, si alza un po', appostiamo, siamo intorno ai 400, la popolazione aumenta leggermente, però ecco, la possibilità di vita rimane sostanzialmente la stessa. Analoga. Perché il problema dell'igiene, poi della fatica e quant'altro, ecco. Ogni tanto c'erano anche nel Settecento le epidemie, ad esempio nel 76 c'è il vaiolo e abbiamo 10 morti, ecco, a Postioma, nel giro di pochissimi giorni, e ogni qualche volta, a dire la verità, non succede spessissimo, ma qualche volta, ahimè, ci sono anche le situazioni di suicidio. Allora vi leggo un atto che sì, per me è struggente ed è bellissimo. Sì, si parla di un cinquantenne, ecco, che nel maggio del 1789 si annegò in una piccola fossa di Brentella, perché per Postioma passa la Brentella, che è un'antica, ecco, è così, un antico canale per l'irrigazione, esatto, ancora fatto dai veneziani. Onde si giudica volontariamente, disperatamente, anche per essere egli espresso poco avanti di volersi annegare o impiccare e di non morire nel suo letto. È stato dal malefizio, che era la polizia criminale, licenziato il suo cadavere ed è stato sepolto dietro il campanile, quindi non nel camposanto, in una fossa più profonda delle altre e senza veruna solennità, quindi senza candele, senza croce. A che ora? Alle 1 della passata notte. È interessante che il Magion, di cui parleremo adesso, l'arciprete, il Pievano, fa questa cronaca del funerale, che è secondo i canoni, ecco, ecclesiastici dell'epoca. Però sotto aggiunge: ero io lì pregante. Quindi è struggente, perché sto parroco che viveva la situazione, sapeva che questi suicidi tante volte erano dettati anche da pellagra che portava la demenza o cose varie, dice: io rispetto il canone, però io sono lì non con la cotta, non con la stola, però e altro, prego. Ecco, bellissima, ecco, come testimonianza, esattamente. E difatti ecco, siamo al nostro Domenico Magion, come vi dicevo, che arriva e porta a compimento il campanile che era già stato iniziato, e siamo appunto nel 65, viene messo appunto, ecco, l'orologio, e poco dopo, ecco, viene completato il campanile. Il campanile di Postioma, se fate caso, ha la copertura a cipolla. E questo è una dichiarazione, se vogliamo, politica un pochino, perché cominciavano ad arrivare le prime, no, in campagna certamente meno, però le prime idee vagamente illuministe, e allora il nostro è sicuramente filo imperiale, e allora per testimoniare un po' la sua fede, ecco che la copertura, come anche quella di Musano, altre, vedete, è a cipolla come i campanili, ecco, austriaci. Sì, certo, ecco. Questo parroco, questo Pievano, inizia, ecco, e porta a termine la chiesa che tuttora vediamo dal 1700. Viene iniziata, ecco, nel 76, poi c'è una contesa con la famiglia Emo, perché il parroco, il Pievano, ecco, faccio riferimento a quello che si diceva prima, lui vorrebbe spostarla rispetto a quella precedente, invece gli Emo dicono: no, la devi fare allargando e allungando quella precedente. Sempre nello stesso spazio. Baruffa, viene fuori anche il vescovo, benedice a prima Pietro, poi dice: no, fermi tutti, no, non succede nulla. Alla fine gli Emo la spuntano, perché dice: calma, caro Don, ecco, Domenico, noi mettiamo i capomastri, mettiamo i muratori, quindi o si fa come vogliamo noi. E alla fine il Magion si rassegna, anche perché il progetto della chiesa del 1700 che si vede adesso a Postiamo è fatto dai capomastri della famiglia Emo, cioè non c'è un architetto, è un capomastro che la progetta. Quindi nel 78 parte la costruzione vera e propria e viene completata nel 1795. Ecco, viene portata a compimento. Lo stesso Magion nel 1800 porta a compimento la canonica e muore proprio nel 1800. Però prima il destino, o il Padre Eterno, non so, la storia, gli riserva delle sorprese, perché tra nell'inverno del 1796 e il 1797 arrivano a Postiamo le truppe napoleoniche. Mamma mia. Allora, prima passano gli austriaci, o imperiali, lui li chiama. Tra l'altro il Magion fa una memoria lunghissima, dettagliatissima, bellissima tra l'altro. Passano gli imperiali per la Postumia e vanno a contrastare i francesi a Fontaniva. Dice il Magion che si sentivano le cannonate, pensiamo non c'era inquinamento acustico. Poi tornano gli imperiali sconfitti, un paio di soldati, ahimè, muoiono anche a Postiamo, vengono sepolti, ecco, fuori dal cimitero, perché non si sa se erano battezzati, se erano luterani o non si sa, insomma. E poi ecco, e quindi un po' di saccheggio c'è, perché sta gente sconfitta. Poi arrivano i francesi vincitori, che si insediano per 2 mesi a Postiamo. Allora voi pensate, 14.000 truppe, 14.000 francesi, con una popolazione di 400 abitanti. Mamma mia, cosa poteva essere, no? Diciamo, gli ufficiali erano albergati, erano alloggiati in canonica. Il Magion si lamenta un po', perché prima si accontentavano di tutto e dopo diventavano delicati. Sempre così. Tra l'altro non passò, perché diceva, Napoleone è passato. No, Napoleone non passò mai, ecco, per Postiamo. Certamente il Monroe, che era il braccio destro di Napoleone, ci fu, e difatti aveva una truppa piuttosto consistente, e lì, ecco, compirono saccheggi, animali, tagliarono le viti, i pali di sostegno, i gessi che sostenevano i filari. Devastazione. Era d'inverno e quindi il problema del riscaldarsi ecco, quello che il Magion annota, poi ecco, per disprezzo, spaccarono le bozze di un certo Benetton che aveva una cantina. Mi viene da pensare che probabilmente sto qua elogiava presso tutti il suo vino e sti qua proprio gliel'hanno, ecco, una cosa tremenda. Ma ci fermiamo un momento, ci ascoltiamo un'altra canzone che è cantata da Marcella Bella, Io domani. Yeah. andare sola. Forse un po' per volta ci diremo appena una parola. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite per l'ultima tranche. Bene, allora ecco al Pievano Domenico Maggion subentra Giuseppe Monico, un personaggio straordinario. Ecco. E viene da Riese, ecco, è professore in seminario, un po' strano come, ecco, come personalità, basti pensare, ecco, che lui curava tutti gli affari, ecco, dei postiomesi, le carte noi diremo oggi, andava lui a Treviso a farle, però una volta si era dimenticato di mettersi le scarpe, si era trovato in pantofole, un'altra volta aveva, ecco, stimolato bizzarro, il cavallo, diciamo, ad andare, si era dimenticato che non l'aveva attaccato al calesso, quindi, e poi una bella forchetta perché scrive anche delle poesie. E per dire, ecco, era molto amico di Dalmistro, il parroco di Coste di Maser, tra l'altro pedagogo del Foscolo, quindi ecco, che si erano messi d'accordo di fare una grigliata, diciamo, in un pomeriggio di novembre. E siccome pioveva, Dalmistro, che lui chiama Dalmistrone perché doveva essere un Marcantonio, non viene, allora scrive una poesia di lode alla pioggia, perché essendo uno in meno in questa grigliata, lui è spassosissimo, straordinario. Lui tra l'altro fonda ecco, il giornale delle lettere venete qui a Treviso, grazie anche alla collaborazione di Giulio Trento, un editore importantissimo che è sepolto a Postioma. Anche lui. Conobbe Paravia, ecco l'antenato ecco, dell'editore attuale, e poi ecco, ebbe modo di conoscere il Giordani, il corrispondente del Leopardi, l'epigrafe del Monico e della Giordani, e poi soprattutto fu legato da amicizia ad Antonio Canova. C'è un carteggio straordinario, per cui ecco, durante la traslazione della salma da Venezia a Possagno del Canova nel 22, ecco, la sosta per la veglia funebre durante la sera, perché ci impiegarono 2 giorni per tutti gli onori che venivano tributati, venne fatta proprio nella chiesa del 1700, la chiesa di Postioma, grazie anche a questa amicizia. Ecco. Tra l'altro lui era molto attento alla realtà popolare, scrive un saggio straordinario sopra le costumanze, pregiudizi, superstizioni e pratiche del popolo di Postioma e delle ville limitrofe. Siamo nel 1812, un'altra volta possiamo sentirci per questo. E beh, Giuseppe Monico è importante proprio perché fu colui che finanziò il ciclo di affreschi di Giovan Battista Canal, perché il Maggion portò a termine la chiesa, però non la dobbiamo pensare esatto affrescata. Mentre il Monico fece venire Giovan Battista Canal, espertissimo, aveva allora 70 anni, quindi con una lunga esperienza, molto probabilmente si fece aiutare, anzi sicuramente dalla bottega, e fece quel ciclo di affreschi straordinario che va dai 4 evangelisti alle virtù, ecco, teologali. È interessante che essendo 4 gli angoli della chiesa, accanto alla fede, speranza e carità, ne inventò una quarta, che è la pazienza, molto apprezzata, ecco, presso la nostra gente, no? Sì. Poi la gloria di San Giorgio, il sacrificio di Abramo e il sacrificio di Melchisedec, ecco, quindi è la tempesta sedata e il mandato a San Pietro, quindi un ciclo pieno, anche la facciata era affrescata, ma purtroppo, ecco, le intemperie l'hanno rovinata. Andando un po', ecco, più avanti, il Monico fu sepolto con grande, ecco, dolore della popolazione, ecco, mm-hmm. E con grande anche ci venne il cugino Jacopo Monico, che poi fu patriarca di Venezia, ecco, quindi fu, ecco, molta gente che partecipò coralmente, mm-hmm, a questo. Dopo, ma che dire, nell'Ottocento, come vi dicevo, abbiamo verso la metà, 1856, abbiamo le nuove campane. Le nuove campane vengono issate sul campanile, sono splendide, sono state restaurate recentemente, sono molto istoriate, molto, sì, belle, molto belle. Ecco, addirittura la campana più piccola è stata scoperta alla data del 1703, e continua, ecco, a suonare, ecco, regolarmente. E fu posto il pavimento, come dicevo prima, a metà del 1800, che tuttora si vede, ecco, nella chiesa del 1700. Una volta facevano cose più consistenti, più, non come adesso. Assolutamente, ecco. E arriviamo quindi ai primi del Novecento. Nei primi del Novecento abbiamo una contesa per la chiesa di Sant'Elena. La chiesetta di Santa Lucia sulla Feltrina era già stata persa ancora nel 1600 a vantaggio di Castagnole. Mentre quella di Sant'Elena era ancora sotto la parrocchia di Postiamo, però con la nuova ridefinizione dei comuni passò, ecco, sotto il comune di Falzè di Trevignano, quindi diremo oggi sotto la parrocchia di Signoressa. E allora, ecco, ci fu una forte contesa. Cosa successe? Che i postiomesi, anche questa è significativa ed è interessante, no? Visto che la chiesa non potevano portarsela via, sì, portarono via la statua di Sant'Elena che era custodita in quella chiesa e che tuttora è nella chiesa, quella parrocchiale, sì, sì, dove si fanno, ecco, le liturgie adesso. Vabbè, insomma. Sì. E sono quelle forme così, sì, ecco, piuttosto importanti, ecco. Sono delle forme di attaccamento, sì, proprio al paese. Assolutamente, ecco, difatti, ecco, la Sant'Elena come copatrona venne, ecco, istituita nei primi del Novecento, ecco, c'è, sì, proprio una lapide di Longhin del 1911 o 13, che sia, mm-hmm, che cita proprio San Giorgio e Sant'Elena, Sant'Elena, ma la sentirono come... Ma voi festeggiate San Giorgio o Sant'Elena? Allora, si festeggiava fino a qualche anno fa Sant'Elena, il 18 di agosto, la sagra, ecco, detta anche sagra dei Cornioi, sì, anche d'estate, perché, ecco, era d'estate. Però, ecco, da qualche anno, soprattutto l'attuale parroco, Don Claudio Bosa, ha ripreso, ecco, e ha rimesso in auge la festa di San Giorgio, che è il 23 aprile. Sì. Allora, sempre in quell'occasione, nella chiesa del 700, appunto, e facciamo concerti o mostre o, ecco, o così, occasioni anche, non so, di poesia per ricordare questa festività, che era, ecco, molto sentita. Avete anche un coro, mi pare, no? Sì, abbiamo due cori, un coro parrocchiale, sì, diciamo, che esegue canti, diciamo, liturgici, polifonici, sì, ecco, sì, liturgici, e un coro però anche di ragazzi giovani molto in gamba che ecco, questa è una cosa, anima le celebrazioni. Bello, per me il coro è un motivo di aggregazione molto, molto bello. Sì. Ecco, nel 56 c'è la nuova chiesa, la chiesa del 1700 viene lasciata in disuso, viene trasformata anche in location, noi diremo oggi usando l'inglese, per l'allevamento di bacchi da seta, per le pesche di beneficenza, sì, esatto, quindi, esatto, andò abbastanza in decadenza. Però, ecco, tutti i parroci mantennero il tetto integro, per cui, ecco, da 3 anni è stato fatto un restauro straordinario, ecco, e qua ne approfitto per invitarvi, benissimo, è aperta ogni quarta domenica del mese, il pomeriggio, dalle 3:30 del pomeriggio alle 7 del pomeriggio, ci sono visite guidate, ci sono anche due pale d'altare molto belle, una del 1761 del Pisani e una dell'Ermolao Paoletti della metà dell'Ottocento. E vi aspettiamo, perché ecco, è un gioiellino straordinario. A due passi da Treviso. Assolutamente. Chi vuole, c'è anche il sito www.chiesadelsettecento.postiamo e lì venite informati anche sulle varie attività. Ad esempio, certo, domenica scorsa abbiamo fatto un concerto, ecco, di musica classica. Presumo che abbiamo un'acustica straordinaria sì, perché il soffitto è a vele. Ecco, questo di aver abbandonato così è comune, e aver abbandonato delle chiese al loro destino, certo, è comune anche di altre, diciamo, cittadine, paesi, sì, eccetera. Sì. Non lo so, a me sembra proprio un segno dei tempi, per i tempi mm-hmm. anni 50 e 60, nei quali si rincorreva la modernità, sì, e si pensava che tutto quello che fosse antico, sì, dovesse essere così abbandonato al suo destino. Però ecco, dal 95 difatti abbiamo fatto questa lenta ripresa, c'è stato anche un sovvenzionamento recupero pubblico, certo, per il restauro, certo, importante, certo. Adesso è davvero un gioiello. Avete fatto un concerto da camera o di musica? Sì, sì, da camera. Ah, sì, sì. Perché... O lettura, facciamo serate di poesia, ecco, serate, sì, sì, ecco, di anche teatro, anche se sono più per monologhi, perché non si possono, sì, installare. Non è, certamente non è, il nostro amico Emilio partecipa, certo, spesso a quelle, certo, poesie. O mostre, ad esempio, abbiamo fatto una mostra di icone molto bella a novembre. Prossimamente, ecco, faremo una mostra di acquarelli, ecco, e così via. Quindi fate tante belle cose. Interessante. E chiedere un'altra cosa, adesso mi viene, vabbè. Comunque, sono attività che voi coltivate, sì, tutto il paese partecipa in generale, insomma, allora, a queste attività. Come in tutte le cose, diciamo, è la collaborazione fra Proloco e questo gruppo di valorizzazione del Settecento, ecco, che si lavora in sinergia, sì, e per, ecco, promuovere proprio intanto l'apertura della chiesa, perché è importante che ci sia una certa sistematicità, la consuetudine, ecco, a visitare, esatto, eccetera, esatto, che è stata persa. Io credo che sia questo un punto fondamentale. E dopo per organizzare eventi, ecco, per dire, a novembre, ottobre, nell'anniversario del Vaillant, abbiamo fatto una serata l'anno scorso proprio dedicata al Vaillant, era gremita come gremita anche la domenica scorsa per il concerto, quindi immagino. c'è un bel afflusso. Questa partecipazione, sì, ecco, sì, sì, questa, questa abbiamo identificazione, certo, diciamo, sì, della nonostante popolazione. Sia musica classica, la gente partecipa, sì, sì, perché, sì, sì, questo è importante, anche perché per me aiuta a elevare lo spirito, certo, evidentemente, perché anche quindi, visto il contenuto, che è molto bello, così vi incuriosisco, venite a trovarci, ecco, molto bello, facciamo anche una selezione in modo da fare manifestazioni di un certo, di un certo livello. Fate, certo, certo, anche teatro, no? Teatro no, no, è un monologo, per dire, è venuto, ecco, Mardegan con Vieseschei de Acqua de Spasmo, ecco, più è per monologhi, perché, certo, per, certo, più, ecco, anche perché non, anche, si, non si, no, il presbiterio non si presta, e anche, esatto, la sovrintendenza è molto rigorosa. Certamente, io devo dire, ha ragione giustamente, anche su questo. Giustamente. Così, concludiamo, diciamo, abbiamo pochi, come dire, secondi, un minuto, poco più. Beh, per intanto... concludere un po' questa carrellata che è stata estremamente interessante. Sì, è molto interessante. E per ringraziare il nostro ospite, ecco, noi, e invitarlo per, diciamo, la prossima volta, naturalmente, per questa cosa che ci ha fortemente incuriosito, anche perché queste sono cose che sono poco conosciute in genere, al di fuori della specifica comunità. Non so, sì, se lei è d'accordo, sì, sì, sì, cioè, sì, ci sono queste enclave, ci sono tutte queste, certamente, nicchie praticamente, che sono importanti, ma è più importante ancora, io ritengo, riuscire a come dire, ad avere un palcoscenico come il nostro, certo, e poter, a divulgare così, queste divulgare, cose che sono molto interessanti, perché anche questi usi e costumi, alcuni, sì, sono, hanno una, con, diciamo, una similitudine con usi e costumi altoatesini o friulani, è estremamente interessante, certo, devo comunque dire. Anche Postiamo, pur essendo un paese così piccolo, che ha una storia, una bella storia, insomma, beh, sì, eravamo pieve, questo lo dico con orgoglio, esatto, eravamo purtroppo. La pieve era quella con il campanile attaccato alla chiesa, anziché la cappella, che sono quelle, esattamente. Ecco, sarà molto interessante. E noi naturalmente impariamo sempre qualcosa di nuovo. Ringraziamo il professor De Conto perché ci ha portato qualcosa di assolutamente inedito per quello che ci concerne. Ma veramente, e lo aspettiamo per la prossima volta, che sarà definita, sì, sì, ma che non passerà molto tempo, no, io ritengo. No. No, va bene. Non passiamo. D'accordo, allora noi siamo a ringraziare il nostro ospite per la sua gentilezza, la cortesia e la sua competenza, naturalmente. Ecco. Allora, professore, la ringraziamo tanto e anche da parte dei nostri ascoltatori. E così noi salutiamo tutti e diciamo sempre, come sempre, ciao ciao. Grazie a voi. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.